9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 22 di dicembre. Questa giornata, ripeto, ci ha scelto lei il tema, perché abbiamo deciso di prestare un orecchio a quello che avverrà nelle piazze di Roma in occasione della giornata che doveva essere quella conclusiva per l'esame, l'approvazione finale della riforma Gelmini. È possibile ancora che slitti a domani per via del pasticcio che è avvenuto in alcune votazioni ieri in Senato, ma prestare orecchio soprattutto a quello che avviene nelle piazze, a queste manifestazioni che oggi dovrebbero avvenire secondo un rito diverso, a sorpresa e dichiaratamente e deliberatamente non violente, dopo la giornata terribile che è avvenuta il giorno della fiducia al governo Berlusconi, che ha riproposto a tutti il tema della violenza di piazza, una violenza particolare perché inaspettata nei confronti delle metodologie poste in atto dalle proteste degli studenti e dei ricercatori nei lunghi mesi della loro opposizione alla riforma Gelmini, una protesta che non aveva raggiunto mai manifestazioni di violenza come quelle che si sono viste a Roma con vetture private incendiate, con l'assalto ai furgoni e ai blindati delle forze dell'ordine, con una città insomma tornata a quelle rappresentazioni di violenza nelle piazze che, a cui eravamo abituati quelli della nostra generazione. Io sono appartengo a una generazione cresciuta in una Torino negli anni 70 molto aspra, molto dura, molto violenta, ho fatto molti funerali, ma ero convinto e resto convinto che il dovere di tutti coloro che appartengono alla mia generazione, comunque la pensino e la pensassero in politica, era e resta quello di non ripetere mai più gli errori che abbiamo commesso. Io ricordo in particolare l'atmosfera, sono cresciuto di fronte alla Fiat Mirafiori, in cui negli anni dal 69 al 72, 73, l'informazione, gli intellettuali, una parte fondamentale del paese, di fronte alle prime manifestazioni che andavano al di là delle forme, diciamo così, civili o tradizionali, quelle in cui si chiedono dei cortei, ce li si fa approvare dalle forze dell'ordine e poi naturalmente con tutta la durezza verbale in cui si manifesta e ci si oppone, però si rispetta più o meno il programma concordato con le forze dell'ordine e con le prefetture, e invece le manifestazioni iniziano a diventare via via più violente. C'era una parte del paese anche allora che iniziò a dire, ma tutto sommato è comprensibile, perché la risposta politica che veniva dai governi di allora erano governi democristiani, è una risposta larghissimamente inadeguata e insufficiente. E secondo me aver sottovalutato quel fenomeno ci portò poi a un'Italia in cui a tutti sfuggiva di mano il bandolo della violenza, e noi facemmo molti anni terribili, molti anni con molti funerali, molti omicidi, molti assassini, e dove per esempio per me che frequentavo un liceo, liceo Alfieri a Torino, il problema era, per chi faceva politica come me, ma la faceva in con una scelta che non aveva niente a che fare né con la destra né con la sinistra, neanche all'epoca, il problema era quello di decidere se per esempio comunicare alle forze di polizia quelli che distribuivano pistole Molotov ai minorenni nel rituale, nella rituale manifestazione settimanale. Ecco, era un'Italia rispetto alla quale questa, io non ho dubbi, non ha niente a che vedere, e credo che sia sbagliato immaginare che la storia si riproponga sempre uguale. Però contemporaneamente io devo dirvi che avverto, proprio per questo, per esserci passato, per aver visto amici quando uccisero per esempio l'ingegner Ghiglieno, il capo del coordinamento strategico della Fiat, era sotto i nostri occhi di fronte al nostro liceo, e sono cose che non ti dimentichi, per così dire, e proprio per questo reputo che, sia pur nella differenza dei tempi, delle generazioni, dei problemi di fronte a noi, la riforma Gelmini non ha niente a che vedere con le cose di cui si parlava in quei tempi, però c'è una cosa che mi ha colpito il giorno della manifestazione, e ne ho anche già parlato a questi microfoni. La cosa che mi colpì era una parte dell'informazione italiana che, di fronte alle fotografie terribili della piazza Roma, per alcune ore ha indotto milioni di italiani, non uno, perché stiamo parlando di giornali molto importanti, a immaginare che quello che era avvenuto anche perché c'erano degli agenti travisati che da una parte assistevano finanzieri che venivano colpiti in ginocchio, e dall'altra poi magari con lo stesso giubbotto ed essendo inequivocabilmente le stesse persone si accanivano contro i blindati dei carabinieri e della finanza. Eppure in quelle stesse ore era disponibile a tutti la sequenza fotografica che testimoniava anche l'arresto di quell'agente travisato, e io mi trovai discutendo proprio con i colleghi qui a Radio 24 quando giravano solo le prime fotografie e non c'era ancora quella dell'agente travisato presunto agente travisato, che si rivelava invece poi nelle fotografie un manifestante, abbiamo scoperto poi che era minorenne, e comunque che veniva fermato in quelle stesse sequenze fotografiche, e io mi sono trovato in minoranza di fronte ai colleghi che dicevano: eh sì, tu sempre lì dietro le forze dell'ordine, ma qua guarda che inequivocabile, qua sono successe cose terribili. Allora io lì mi arrabbiai un pochino, e mi arrabbiai anche l'indomani, a dire la verità, se vi ricordate quello che ho detto per radio, perché ho pensato, andando proprio indietro alla storia che vi ho raccontato di quando ero giovane impegnato in politica e di quando le manifestazioni di piazza tutti i giorni e tutte le settimane finivano malissimo, io devo dire, mi sono molto scaldato, perché ho detto ai miei colleghi: guardate che prima, in circostanze così delicate, di far credere ai nostri ascoltatori, ai nostri elettori, comunque la pensiamo del governo, del disegno di legge Gelmini, prima del merito, ma prima di far pensare a milioni del nostro pubblico che quello che avviene, avviene perché c'è un sordido disegno in cui sono le forze dell'ordine al servizio di un governo a mettere in atto tutto questo, noi dobbiamo essere ipercerti, non possiamo farci a nostra volta travolgere dalle emotività o magari da quello che pensiamo politicamente. Io continuo a pensarla così, e mi auguro comunque che la lezione di quel giorno, oggi, sia una lezione innanzitutto ben presente, come sembra dalle dichiarazioni, a tutti coloro che legittimamente oggi, studenti, ricercatori, sono ancora una volta in piazza contro l'approvazione del disegno di legge Gelmini, che chiedono al Presidente della Repubblica di non firmarlo. Poi la mia opinione, ne parleremo domani, domani avremo ospite anche il Ministro Gelmini, ancora una volta parleremo del disegno di legge, io ho l'impressione che sia un po' diverso, ma questa è la mia personalissima opinione, da come viene rappresentato in un paese che sicuramente dà troppo poco al sistema della formazione. Ma insomma, se prima della sua approvazione il rettore di Tor Vergata ha assunto la nuora e quello della Sapienza ha assunto il figlio, è come si vede, evidentemente qualche giro di vite lo dà, e credo che quei rettori non abbiano fatto veramente, non abbiano dato il loro contributo né al rasserenamento del dibattito pubblico, né tantomeno al merito e alla trasparenza di quello che deve avvenire nel sistema della formazione, se ciascuno dal suo punto di vista, però tutti ci battiamo perché il nostro paese non sia un paese in cui i giovani vengano depredati dal futuro. Il problema è, su questo non credo che si possa dissentire, che è vero che questa giovane generazione è depredata del futuro, lo è così perché il sistema della formazione non è un buon ascensore sociale, è così perché il sistema della formazione pubblica, che viene difesa da tutti in quanto proprio pubblica perché dovrebbe dare l'eguaglianza delle opportunità, finisce per essere invece una roba che agevola chi ha dietro redditi per fare formazione migliore, soprattutto all'estero, senza dare poi la possibilità di tornare qua, e il famoso brain drain, il drenaggio dei cervelli migliori che vanno all'estero, perché in Italia poi non ci sono occasioni. E i dati della disoccupazione li vedete oggi sui giornali nel loro aggiornamento, sono dati di una disoccupazione generale all'8,7%, certo inferiore alla media europea, ma comunque alta, e soprattutto quella giovanile col 24,7%, è un dato abbastanza terribile, perché significa che quegli inserimenti nel mondo del lavoro, e soprattutto quelle tutele nel mondo del lavoro, e soprattutto le retribuzioni nel mondo del lavoro, e soprattutto la durata dei contratti nel mondo del lavoro, e soprattutto, andando più avanti, fino alla pensione, questa giovane generazione non deve mettere in conto, non può mettere in conto di averla nelle condizioni delle generazioni precedenti. E poi ci si divide a quel punto, perché c'è chi come me pensa che bisognerebbe essere capaci di ragionare con i giovani e insieme a loro indurli a immaginare che tutto questo deriva dal fatto che i costi di quelle garanzie, di quelle tutele, di quell'organizzazione del mercato del lavoro, di quel welfare, di quel sistema pensionistico non erano oltre estensibili, e loro pagano la cosa terribile che i costi di quei diritti bisogna modificarli, perché altrimenti sarà sempre di più la generazione di chi viene dopo a non avere le tutele, di chi intanto se le è mantenute per anni, e questa generazione pagherà anche il costo di quelle tutele che non avrà, perché ricordo a tutti che dei nostri 22, quasi 23 milioni di lavoratori, solo 9 milioni sono quelli tutelati in pieno dallo statuto e dalla forma previdenziale che siamo abituati a immaginare retributiva, cioè quella pre-riforma Dini. Poi ci sono 9 milioni di lavoratori per cui invece queste tutele non valgono, e che sono il popolo che dal 2001, dalla legge Treu, ha sperimentato cosa vuol dire il rapporto di lavoro ballerino per quattro soldi, con versamenti previdenziali bassissimi e con una condizione effettivamente molto diversa da quella sperimentata prima. Ci si può dividere e ci si divide sulle ricette, però questo è il dato di partenza su cui riflettere, e quindi il dato di partenza dipende deriva anche da come la politica può prestare orecchio a questa generazione, dando per scontato che, siccome si è giovani e ci siamo passati, non si è in condizione di capire tutto bene, ragionare tutto bene, ma il dato di fatto è sicuramente quello di un paese che non è in grado di garantire alle giovani generazioni ciò che per decenni è stato garantito a chi le aveva preceduti. Su questo oggi noi abbiamo deciso di ascoltare voci politiche diverse e grazie a Dio per una volta siamo riusciti, perché ogni tanto ci mettiamo con la testa contro il muro e ci prendiamo a schiaffi, perché diciamo: è possibile che facciamo trasmissioni sempre solo con uomini che parlano? Oggi una trasmissione finalmente con ragazze e signore, e quindi abbiamo con noi, per parlare dei temi di oggi, della manifestazione, dei giovani e del disegno di legge Gelmini, il ministro della gioventù Giorgia Meloni. Buongiorno signor ministro, grazie. Buongiorno a lei, buongiorno. Il direttore del Manifesto Norma Rangeri, buongiorno direttore. Ciao, buongiorno. Alessia Mosca, segretario della Commissione del Lavoro alla Camera, parlamentare del Partito Democratico. Buongiorno onorevole Mosca. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Ministro, lei oggi è impegnata in una specie di tour de force in tutta la giornata, apposta perché ha detto: in una giornata come questa io mi metto appunto in ascolto e tento di dialogare con tutti coloro che mi chiamano al microfono. Quindi c'è una giornata di impegni tutti modulati su questo. Dovessimo dire che cosa lei si aspetta da questa giornata, e per come conosce lei le giovani generazioni, dare anche un giudizio su quello che è avvenuto giorni fa, il giorno della fiducia, e se secondo lei oggi rischiamo qualche cosa oppure no, cosa ci direbbe? Ma guardi, io chiaramente mi auguro di no. Poi purtroppo il clima che ho registrato anche nei giorni scorsi è un clima che non aiuta, anche da parte, voglio dire, di sigle studentesche che insomma non sono esattamente quelle dei centri sociali. Leggevo l'altro giorno un comunicato stampa dell'Unione degli Studenti, che è la sigla studentesca di riferimento della CGIL e del Partito Democratico, in buona sostanza, che anche insomma utilizzava rispetto alla manifestazione toni molto duri, del tipo: nessun dialogo, del tipo: sarà un assedio, noi facciamo come vogliamo e quant'altro. E francamente questo non aiuta anche rispetto al dibattito su una riforma che è chiaramente una riforma che incide seriamente sull'università, responsabilità che noi ritenevamo da avere e continuiamo a ritenere, e della quale purtroppo poco si è parlato, nel senso che io, al di là diciamo della maratona di oggi, anche nelle settimane scorse mi sono prestata a tutti i dibattiti che avessero direttamente gli studenti di fronte, per capire come fa un corpo studentesco, perché insomma io sono cresciuta nel movimento studentesco, francamente non avrei mai creduto nella mia vita di veder manifestare in piazza con questa determinazione, pure una minoranza, perché chiaramente dobbiamo sempre ricordarci che stiamo parlando insomma di alcune migliaia di persone a fronte di centinaia di migliaia di persone che non manifestano e che presumibilmente sono anche d'accordo col lavoro che facciamo, si vede anche dai risultati diciamo così elettorali all'interno dell'università, ma francamente non avrei mai creduto di vedere un giorno manifestare gli studenti contro una riforma che comunque dice delle cose che io ho sognato e che il movimento studentesco ha sognato si potessero dire per decenni, perché quando si dice ad esempio che questa è una riforma che distribuisce una parte delle risorse alle università che lo meritano e che quella valutazione, che ai fini di quella valutazione è determinante il giudizio che gli studenti danno dell'insegnamento dei loro docenti, io penso che si faccia una cosa che in Italia non si è fatta mai. Quando noi diciamo, e paradossale Giannino, che in Italia si debba fare una legge per dire che chi ha una cattedra deve andare a insegnare, perché noi questo abbiamo fatto una legge per dire che i docenti devono dimostrare di essere presenti tot ore all'interno dell'università e di destinare una parte significativa di quelle ore al rapporto con gli studenti, quindi o alla docenza, diciamo, quindi alle lezioni, oppure comunque a servizi per gli studenti. E io potrei portare avanti e potrei citare una decina di provvedimenti di questo tipo. Allora, che cos'è che mi dispiace? Mi dispiace se noi non siamo in grado di parlare del merito dei provvedimenti, perché vede, io sono assolutamente certa e convinta che i ragazzi che scendono in piazza manifestando un disagio che c'è. Noi non possiamo nasconderci, non possiamo non dirci che è vero che c'è la crisi economica, ma dobbiamo anche chiederci perché la crisi economica impatta soprattutto sulle giovani generazioni. Impatta sulle giovani generazioni perché per decenni la politica ha scelto di non occuparsi dei problemi delle giovani generazioni e di occuparsi solo di quello che sarebbe tornato utile in termini di consenso nella prossima scadenza elettorale. Cioè noi paghiamo le pensioni di gente che è andata in pensione a 40 anni, perché negli anni belli dell'economia la politica si è preoccupata di garantire quelli che di cui doveva avere il consenso, senza porsi il problema di chi avrebbe pagato questo conto. Ora, quando noi siamo arrivati al governo, in una situazione nella quale la disoccupazione giovanile è già al 24% e c'è anche la crisi economica, avevamo due scelte. La scelta di campare, ok, e di rimandare il problema, di non porci il problema che abbiamo una scuola che non riesce più a formare i ragazzi italiani, di avere un'università che è studiata per chi ci lavora dentro e non per chi dentro ci deve studiare, eccetera, eccetera, eccetera, oppure di coraggiosamente affrontare la questione, anche combattere una serie di oligarchie, privilegi consolidati, rendite di posizione, perché quello che sta distruggendo l'Italia è questo. Sono i privilegi e le rendite, e il fatto che ci sono fior fiori ragazzi che non lavoreranno mai dentro l'università perché qualche barone ci piazza tutta la propria famiglia. Questo è il dato esatto, e quello che sta avvenendo in queste ore, lei lo ricordava, ne è la pura e assoluta dimostrazione. Poi si può sempre fare meglio, però si deve partire dal presupposto che noi siamo d'accordo sul fatto che questa scuola e questa università, così come altre questioni che vanno affrontate e che riguardano le giovani generazioni, sono prioritarie e dovrebbero, dico di più, essere anche una volta tanto, diciamo così, zona franca rispetto al posizionamento scontato delle forze in campo, maggioranza, opposizione. Quando noi abbiamo approvato il decreto 180, sempre sull'università, accogliemmo, ricordo, alcune proposte molto qualificanti del Partito Democratico, e loro scelsero comunque di non sostenere il provvedimento. Ora, purtroppo, su queste vicende noi ci prendiamo tutti delle importanti responsabilità. Io sono contenta che noi abbiamo avuto il coraggio di affrontare questa tematica. Poi ripeto, magari si può fare anche meglio, ma intanto c'è qualcuno che si è posto il problema di difendere gli studenti a fronte delle oligarchie. E penso che si debba essere fieri. E dico l'ultima cosa, lo dico anche agli studenti che manifestano in piazza, anche rispetto al tema degli scontri con la polizia, ma aspetto sempre che sia il movimento a isolare i violenti, perché poi non ci dimentichiamo che quelli che indossano i caschi, intendo in questo caso non i manifestanti ma i poliziotti, in molti casi sono dei ragazzi come loro, che guadagnano meno di quanto guadagnerà un ricercatore dopo che noi avremo fatto la riforma. Quindi ricordiamoci anche chi è in piazza che si fronteggia, e ricordiamoci anche che storicamente le grandi manifestazioni fatte di gente che vuole davvero rivendicare un proprio diritto hanno assolutamente la capacità di isolare e allontanare dalla manifestazione chi pensa di utilizzare anche la legittima rivendicazione di un diritto per mettere a ferro e fuoco una città semplicemente per devastare, perché non c'è, guardi, niente di ribelle nel distruggere, non c'è niente di ribelle nel dare fuoco allo stand dell'Unice a Piazza del Popolo, come è accaduto lo scorso 14 dicembre, che distribuisce la pigotta, la bambola che si vende per raccogliere fondi per i bambini malati di AIDS in Africa. Non è rivoluzione questa. Ora, parleremo poi dei provvedimenti che il suo ministero ha rivolto specificamente ai giovani. Io ho avuto l'impressione in quel giorno, nel giorno delle manifestazioni a Roma sfuggite di mano di controllo, che, a dire la verità, in molte circostanze, nel più delle circostanze che sono poi degenerate, il movimento, le sigle degli studenti centrassero poco. Il problema è naturalmente che in questa occasione, al crescere della tensione, c'è una parte, alcune migliaia in Italia, di persone che appartengono a circoli, ad associazioni che credono nella forma di una contrapposizione estrema anche nelle piazze, e che a quel punto, secondo me, non dico ne approfittano, ma hanno un occhio, un orecchio attento a dove si può, per così dire, insinuarsi e far fare un salto avanti verso la violenza nella protesta. E credo che questo sia avvenuto quel giorno soprattutto. Però l'indomani noi ci siamo trovati poi di fronte a un problema rispetto al quale, ripeto, la mia generazione sui media si è vista un po' allo specchio. Io chiedo a Norma Rangieri, che stimo tantissimo da tanti anni, mi sono abbeverato come tutti noi a tutto quello che ha scritto sulla televisione, che è una roba che io non amo molto, e per anni lei se ne è occupata, secondo me, meglio di tutti. Questa è la sviolinata, ma siccome non gliel'ho mai detto, non è certo per fare captazio benevolenze. A me ha colpito molto alcuni di quelli con cui, insomma, ho polemizzato di più quando ero giovane, ai tempi dei movimenti contrapposti. E allora, apposta, io scelgo di chiedere a Norma di commentarmi una frase che mi ha molto colpito, una frase di Henry De Luca. Henry De Luca, naturalmente, a molti di voi dirà poco, ma insomma, Henry De Luca, stiamo parlando di l'ex responsabile del servizio d'ordine storico di Lotta Continua, un personaggio particolare, un intellettuale raffinatissimo, che poi ha passato anni dopo gli scontri duri del movimento a lavorare manualmente, a fare l'operaio, e poi a tradurre dall'ebreo e dal sanscrito libri sacri. Cioè, vi garantisco, una una persona straordinaria e che però non ha mai negato di essere passata per il ferro e per il fuoco degli scontri di piazza e per lotta continua. E il re De Luca ha commentato quello che è avvenuto quel giorno con una frase di quelle che alla mia generazione sembra un po' terribile e che sembra anche centrare però un punto per noi che ci siamo passati, perché ha detto: credo che anche per questa giovane generazione di protestatari, di coloro che vanno scendendo nelle piazze, si ponga il problema di misurarsi con la dannata necessità della violenza. Ecco, la dannata necessità della violenza, in cui questa dannata c'è da parte una condanna, ma dall'altra c'è anche il fatto che, essendo dannata, sta insieme al fatto che è una necessità. E io in questa doppia scelta semantica di R. De Luca ho sentito un brivido percorrermi la schiena, non perché pensi ancora oggi, come pensavo un tempo, che il re De Luca sia lì a soffiare sul fuoco. No, ma lo dico perché con i rappresentanti della sinistra che non sta in Parlamento, eccetera, eccetera, penso che su questa indiadi, quella della dannata necessità della violenza di fronte a un mondo che non ci piace, noi dobbiamo veramente sviscerare la questione. E allora, dopo la pubblicità, perché nel frattempo io parlo troppo, devo imparare a stare più zitto, dopo la pubblicità do la parola a Norma Rangeri e Alessia Mosca. Eccoci, allora, Norma Rangeri, direttore del Manifesto. Sì, no, io capisco l'ansia, anche un po' l'angoscia da parte di chi come te, anche come me, ha vissuto altre stagioni in questo momento, però penso che con la lucidità dell'analisi noi dobbiamo anche evitare di proiettare il passato sul momento, sull'attualità, perché questa situazione, la protesta di adesso non ha nulla a che fare per la condizione sociale che gli studenti riflettono, per la generazione, sono giovanissimi, che le esprime. Quindi cerchiamo di togliere, diciamo, il fantasma del passato dal campo e guardiamo con lucidità invece all'oggi. Noi abbiamo fatto l'altro giorno una tavola rotonda al giornale con un gruppo di rappresentativo abbastanza di questo movimento, di questi studenti, c'erano ragazze, ragazzi, ricercatori, studenti, e ho trovato abbiamo pubblicato ieri questa chiacchierata, una duttilità, un'ironia e tuttavia una radicalità, diciamo, nelle loro riflessioni. E questi studenti, questi ricercatori, manifestano un disagio che non è solo quello dello studente, ma è quello di una condizione di precarietà che è molto estesa a vari gruppi sociali. E l'altra cosa interessante, infatti, è che questo movimento è molto collegato, per esempio, attraverso assemblee, incontri, manifestazioni, anche a un'altra ala radicale della politica, del movimento politico italiano, che è quello rappresentato dalla FIOM, che è la parte, diciamo, più radicale, più di sinistra della CGIL. E quando c'è stata la manifestazione del 16 ottobre della FIOM, dove operai e studenti erano insieme, se uno andava lì a guardare le facce non era facile distinguere, perché l'operaio di oggi è un ragazzo, almeno quelli che erano lì, molto giovane, vestito con un look, diciamo, molto diverso, per esempio, dagli operai di Torino, come diceva Oscar, che frequentavano, no, la fabbrica negli anni 70. C'era una differenza sociale di classe che adesso non c'è più. Quindi un'analisi anche dal punto di vista sociale ed economico della composizione, diciamo, proprio di questa gioventù, del precariato, sia in fabbrica sia fuori dalla fabbrica, l'università ci aiuta a capire che quando si dice, ormai è diventato uno slogan abusato, che questi ragazzi non hanno più un futuro, si dice una cosa molto semplice, che mentre noi quando protestavamo poi avevamo comunque una famiglia, una casa dove tornare se le cose fossero andate male, cioè una protezione comunque anche sociale ed economica, questi ragazzi dietro le spalle non hanno nulla. Quindi la violenza per tornare ad Henry De Luca, cioè il confronto con la violenza è, diciamo, un confronto necessitato da una condizione molto dura, perché non ci sono soldi per far nulla, non ci sono soldi per studiare, non ci sono soldi per trovare una piccola casa. Quindi c'è una generazione che ha una rabbia e una difficoltà di vivere che noi non possiamo mettere tra parentesi. E la cosa che colpisce molto anche è l'età, perché a Piazza del Popolo questi ragazzi che facevano gli scontri con la polizia erano avevano meno di 20 anni e non erano come nel passato dei gruppi specializzati nella violenza. Io detestavo i servizi d'ordine del movimento studentesco degli anni 70, che erano, diciamo, gli impiegati, dicevo io, della violenza, cioè quelli che marcavano il cartellino per andare a fare lo scontro, insopportabili. Ma questi sono ragazzini che non hanno mai fatto politica, non sono mai stati in nessun gruppo, in nessun partito, e che vanno allo scontro con la polizia senza averne paura. Cioè, quando ci si facevano gli scontri negli anni passati, c'era appunto un'avanguardia che andava a fare lo scontro e il resto del corteo terrorizzato che fuggiva, scappava. Beh, questa volta questi ragazzini non scappavano, erano lì, e quando poi al giorno dopo le televisioni andavano a chiedere: ma scusa, tu cosa pensi di questa esplosione di guerriglia urbana? E loro dicevano, non si nascondevano, e con la loro faccia davanti alla telecamera non stigmatizzavano, non dicevano no, hanno sbagliato, dicevano forse avranno anche sbagliato, però noi a questo punto dobbiamo farci sentire. Siccome, e questo è l'altro punto che volevo toccare, questo governo e la sceneggiata di ieri, non so chi l'ha vista, della vicepresidente del Senato, quello che è successo è stata una cosa indecente, uno spettacolo indecoroso. Questo governo marcia a tappe forzate senza dare neanche l'impressione di voler dialogare. Io non dico che il governo centrodestra debba convenire con la protesta degli studenti, oddio, non ci sarebbe niente di male se avesse qualche sensibilità, però ecco, non averne nessuna e anzi accelerare i tempi, ma questo dà una sensazione a chi va in piazza molto negativa, cioè non placa gli animi, non predispone alla volontà di confronto. Del resto lo stesso capo della polizia Manganelli, in un'intervista sull'Unità, ha polemizzato molto, diciamo, anche seppure indirettamente, con il governo, sostenendo che in fondo le forze dell'ordine si trovano loro a dover supplire una difficoltà sociale nel paese, e ovviamente non sono certo le forze di polizia che devono affrontare una situazione economica, politica e sociale che è quella che tutti sappiamo, sia, voglio dire, adesso non c'è bisogno di essere di destra o di sinistra per capire che siamo nel disastro, no? Allora, adesso io faccio un'osservazione che giro ad Alessia Mosca e poi torniamo al ministro, perché due osservazioni brevissime su quello che ha detto Norma, che mi ha molto colpito e mi ha trovato d'accordo. Primo, per tutti coloro che ci sono passati, sono d'accordo, evitiamo il fantasma del passato, però sanno, ricordano almeno, che i momenti decisivi, quelli in cui si forma un movimento nelle piazze e si forma anche andando oltre le regole, è sempre così, sono proprio quelli in cui ci si scopre in grado di fare cose diverse da quelle che si immaginava. Per questo l'evento di formazione, il Bildung, per così dire, di un movimento, se fin dall'inizio scopre forme di protesta violente, secondo me ci deve concentrare l'attenzione su questo. E quindi la modalità dei minorenni, che giustamente hanno colpito te come hanno colpito anche me, che non si ritraevano, dicevano no, dobbiamo farlo, è un fenomeno rispetto al quale noi dobbiamo dire delle cose, e non basta semplicemente dire vi mandiamo in carcere o andate a studiare, bisogna essere in grado di parlare. Seconda osservazione però, che giro da Alessia Mosca, negli anni 70 era molto più vero di adesso che quei giovani, le famiglie, eccetera, eccetera, non avevano niente. Adesso il paradosso è che noi descriviamo la situazione di un paese in cui è vero, i soldi pubblici nei flussi da destinare in maniera crescente a loro non ci sono, e dobbiamo sapere dirglielo che è così, visto che non ce lo possiamo permettere per la crisi dell'eurodebito, ma contemporaneamente le loro famiglie hanno un patrimonio, una ricchezza accumulata che le famiglie nostre degli anni 70, col cavolo che avevano, a casa mia non c'era niente, ma dico niente, non è che sul conto c'era di che arrivare al mese successivo, non c'era veramente niente. Oggi i dati della Banca d'Italia di ieri li abbiamo visti su quale è la ricchezza delle famiglie, certo non tutti hanno la stessa cosa, ma qua si tratta di ricchezza accumulata pari al 550% del PIL, sommando immobili, ricchezza finanziaria e quelli di tutti i tipi, cioè una media di 320.000 euro, capite, a famiglia italiana. Ripeto, una media, c'è chi poi ne avrà 70, 80, chi ne avrà milioni, però intanto questa roba qua negli anni 70 non c'era. Ma non è che non siamo capaci di spiegare ai giovani quello che davvero hanno, un enorme patrimonio e poco flusso, e quindi bisogna mettere mano a quel patrimonio? Domanda per Alessia Mosca. Ma sì, da un lato è molto vero quello che si dice, nel senso che c'è una oggettiva maggiore ricchezza rispetto a quella che c'era nel passato. Sicuramente i dati di Banca d'Italia non possono essere affrontati in modo così superficiale, diciamo, nel senso che il fatto che solo il 10% delle famiglie detenga il 50% della ricchezza comunque rappresenta un grosso problema. Ovunque i paesi in cui c'è un grande divario sono i paesi in cui anche la coesione sociale è più a rischio, quindi questo è un dato che deve fare molto riflettere da un lato. Però anche lì da noi il coefficiente di Gini è più basso degli altri paesi, cioè negli altri paesi in media la distribuzione è ancora più concentrata nella parte alta, col che non voglio dire che va bene quella che c'è qui in Italia, ma era solo questo per dirlo agli ascoltatori. Prego, riprendo. Sì, è anche vero che però questo nostro tasso di diseguaglianza è combinato con un tasso di mobilità che è bassissimo, e sappiamo bene che i due tassi insieme creano delle situazioni che sono di forte disagio. Dall'altra parte c'è l'elemento delle aspettative, e quello che credo che la maggior parte dei giovani in Italia oggi stiano cercando di dimostrare è il fatto che queste aspettative sono decrescenti. Anche questo è l'elemento di cui si sta discutendo molto in questi periodi, cioè il fatto che si sappia che il futuro sarà peggiore rispetto alla situazione che abbiamo ereditato è un elemento che crea una situazione di insoddisfazione, perché anche gli economisti si interrogano e sanno benissimo che ci sono dei fattori che non sono i numeri crudi che vediamo e che leggiamo, ma che sono legati anche ad un elemento di aspettativa, di desiderio e di possibilità di ottenere tali aspettative che uno si crea. Quindi tutti questi elementi non possono non essere considerati nel momento in cui si fanno dei ragionamenti su che cosa, quali sono le motivazioni vere per cui si arriva ad avere questo senso forte di disagio. Io voglio però poter esprimere intanto alcune considerazioni anche in relazione alle cose che venivano dette prima dal ministro Meloni. Io credo che non ci sia nessun senso di responsabilità da parte di nessuno nel cercare di strumentalizzare, nel dare nel far sì che vengano prese delle posizioni da parte di alcuni partiti che non sono quelle che abbiamo espresso. Dico esplicitamente, il Partito Democratico ha condannato fortemente tutte le forme di violenza, e penso davvero che sia proprio una mancanza di responsabilità cercare di sfruttare politicamente in un modo o in un altro queste situazioni. Io credo però, ed è questa la posizione che il Partito Democratico sta cercando di esprimere in questi giorni, in questo periodo, che ci sia una forte necessità nel non liquidare queste proteste, questo disagio dei giovani, laddove sono proteste che sono pacifiche e che vogliono cercare di discutere nel merito delle questioni che sono sollevate. Allora il fatto di liquidare così questo disagio penso che davvero ci inchiodi ad una modalità di fare politica che non rispetta neanche la giovane età che noi rappresentiamo. Io penso che il fatto che non ci sia questa grande fiducia fiducia nel futuro da parte dei giovani italiani rispetto ai giovani europei. Il fatto che si abbiano tutte queste difficoltà nel vedere realizzate le proprie aspettative, penso che chieda a noi, soprattutto a noi che siamo più giovani, una responsabilità di guardare a questo futuro senza guardare indietro e cercare continuamente uno scaricamento di responsabilità vicendevole. Allora, in questo noi abbiamo cercato di affrontare davvero nel merito delle proposte che sono state sollevate e che adesso sono in discussione. Parlo in modo particolare delle questioni relative alla riforma Gelmini, e noi abbiamo soprattutto sottolineato come crediamo che non sia giusto, che non sia una questione di giustizia il fatto che siano stati tagliati tutti i fondi, soprattutto per il diritto allo studio. Detto questo, siamo stati i primi e abbiamo continuato a sostenere che era necessario modificare alcune cose, quindi nessuno vuole mantenere lo status quo. È chiaro che le baronie, che le parentopoli e le situazioni di immobilismo all'interno dell'università, così come tutti gli sprechi, sono tutte da affrontare in modo deciso e fermo, e in questo noi abbiamo tentato di dare il nostro contributo. Tentato dico perché poi c'è stato anche poca possibilità per noi di far sì che le nostre proposte venissero accettate, ma la cosa sulla quale noi non abbiamo voluto retrocedere di un millimetro è stato il fatto di aver tagliato la possibilità ai giovani effettivamente di studiare, e questa è la critica più forte che noi facciamo, e questo è stato confermato purtroppo da dati che sono veramente in controtendenza rispetto a tutti gli altri paesi europei che stanno vivendo la stessa situazione di crisi economica. Quindi non ci si può nascondere dietro al fatto che c'è una crisi che non consente di elargire fondi pubblici. Gli altri paesi però, a differenza del nostro, hanno deciso e hanno trovato delle modalità per non retrocedere rispetto a questo settore, che è considerato il settore su cui si può costruire il futuro. Il fatto che nel nostro paese ci sia una riduzione del numero degli iscritti all'università, questo è un dato che è sconvolgente. È sconvolgente soprattutto perché diciamo da sempre che l'unico modo per uscire dalla crisi è quello di investire sull'educazione, sulla formazione, l'unico modo in cui i paesi cosiddetti sviluppati possono mantenere il loro livello di crescita, il loro livello di benessere. Allora, la devo fermare perché abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale. Tre osservazioni flash. Primo, sì, è vero, noi diamo meno risorse agli altri, se ne dessimo di più attualmente ne daremo di più però a chi in università ci lavora, e su questo c'è bisogno di una discontinuità di tutti. O la politica dice, chiaro, che il più del 99 quasi per cento della bilancia pubblica non va dato per posti in cattedra ma per la formazione, e bisogna dirlo chiaro, perché bisogna che vi mettiate contro tutti i sindacati che ci avete, perché loro vogliono il contrario. E ancora una volta io su questo, a questi microfoni, ho detto agli studenti: voi state insieme ai ricercatori, ma non perché siano i vostri nemici, però potenzialmente sono i vostri nemici per l'assegnazione delle risorse. Punto numero uno. E quindi questo è un punto di fondo. Punto numero due. È vero proprio che il numero di minori iscritti all'università sia una tragedia? Su questo la Mosca ci mette di fronte alla realtà comparata dagli altri paesi avanzati. Sì, negli altri paesi avanzati però non c'è questa cosa solo italiana che si chiamano i fuoricorso. I fuoricorso, cioè stiamo parlando praticamente di più di un quarto del totale di iscritti all'università italiana, negli altri paesi non ci sono. È così sbagliato tentare di diminuire questo fenomeno? Non lo so. L'illusione dell'università di massa e di tanta gente, io nel corso che ho, li ho alla fine della laurea, molti di loro mi dicono: boh, cosa farò? Bah. È davvero quella l'università dequalificata di massa la maniera per entrare nel mercato del lavoro? Io penso no. Tante volte ci siamo detti: ci sono 2 milioni di disoccupati, 1 milione prima della crisi, 1 milione aggiuntiva per la crisi, e ci sono poi 240.000 posti non coperti nella realtà delle imprese italiane, per le quali molto spesso, quasi sempre, non serve un diploma di laurea. Ma ecco, solo due paradossi lì buttati per riflettere: l'informazione sulla circolazione stradale. Torniamo col ministro. Fino a questo momento le agenzie dicono calma intorno al Ministero dell'Istruzione, che è blindato. Annunci da parte, per esempio, del coordinamento di lotta studentesca: coloriamo di rosso l'acqua delle fontane. Per il momento, insomma, non ci sono segni tali da fare preoccupare. Sentiamo rapidissimamente, per poi commentare con il ministro Meloni, un paio di telefonate. Innanzitutto Luca che ci chiama da Asti. Prego, Luca. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Dunque, io sono libero professionista con 20 anni di professione alle spalle, frequento abbastanza il mondo dell'università perché per il mio lavoro torna spesso utile cercare di creare una sinergia tra ricerca e professione, e quindi, come dire, sono veicolo anche di lavoro per chi in università opera, quindi un minimo il mondo, penso di conoscerlo, il mondo della ricerca. Sì. Ma... una delle cose che secondo me fa imbufalire di più i giovani è il fatto di sentirsi presi in giro. E nello specifico voglio parlare del fatto che nel nome della lotta alle oligarchie, alle baronie, secondo me si fanno passare per grandi rivoluzioni delle cose da poco. Parlo nello specifico di quella norma che vorrebbe vietare di avere parenti stretti nello stesso dipartimento. Io porto l'esempio di Torino, è noto a tutti, è facilmente verificabile. A chimica, nello stesso edificio, ci sono 3 dipartimenti. A geologia, nello stesso edificio, ce ne sono 2. Al Politecnico non so neanche quanti siano, quindi basta cambiare stanza per cambiare dipartimento. Quindi lei dice è una nuova norma, ma in realtà gli studenti capiscono al volo che la si raggirerà facilmente e quindi si sentono presi in giro. Questa è un'osservazione che sono disposto a scommettere che è questa una delle forme che avverrà, perché io non credo che la parentopoli, cioè la logica relazionale, che non c'è mica solo nell'università, c'è dovunque nella realtà italiana, è una logica che si sa adattare. Quindi questa secondo me è una buona osservazione. La condivido, non che io debba dare i voti, ma nel senso che semplicemente la condivido. Sentiamo ancora Vincenzo che ci chiama da Napoli. Prego Vincenzo. Buongiorno, mi sa che ha la radio accesa e c'è l'eco, quindi la deve abbassare. Buongiorno dottor Giannino, io volevo intanto invitarla a non buttare via la tessera che lei molto, in maniera molto arrabbiata ha minacciato. No, io non ho minacciato, io sono per l'abolizione dell'ordine. Credo che se l'ordine sanziona solo vedendo da una parte sbaglia, ma io sono per l'abolizione dell'ordine. Io su questo volevo un attimo fare un'osservazione. Adesso non parliamo di questo, però stiamo parlando dei giovani, dei studenti della protesta. Certo. Le ragioni della protesta, per quello che io posso osservare, tenga presente, e le faccio una premessa, io a 40 anni mi sono appena iscritto all'università e ho passato mezza giornata per fare un'iscrizione e mi sono reso conto dell'ambiente universitario come funziona. Lì, secondo me, non è proprio rappresentato l'altra parte della politica italiana. Quindi, essendo a quanto visto... Che vuol dire l'altra parte? Nel senso che tutto ciò che muove centro-sinistra e dentro l'università, vedo pochissima informazione, non dico governativa, ma di centrodestra, nel senso che non c'è un contraddittorio. Quindi lo studente universitario, secondo me, che nella maggior parte non approfondisce i contenuti né della riforma ma neanche degli altri temi. Chiarissimo, Vincenzo dice centrodestra, i giovani di centrodestra non ci sono abbastanza e comunque centrodestra non è riuscito a spiegarla. Ministro, teniamo un po' le conclusioni rapidamente, però ne avrà credo di spunti da raccogliere. Prego. Beh sì, ce ne sono davvero molti di spunti da raccogliere, proviamo ad andare abbastanza velocemente. Partendo da questa ultima osservazione che faceva il nostro ascoltatore, in verità non è vero che il centrodestra nelle università non c'è, nel senso che i dati che insomma accennavo anche prima sui risultati delle elezioni universitarie dimostrano che il centrodestra vince le elezioni universitarie praticamente ovunque. È vero che noi abbiamo una maggiore difficoltà di poter dialogare all'interno dell'università, anche perché spesso gli stessi che in qualche maniera mettono a ferro a fuoco le città utilizzando il movimento nelle manifestazioni come quella appunto dello scorso 14 dicembre pensano anche di poter decidere chi ha diritto e chi non ha diritto di parlare all'interno dell'università. Lei pensa che a me non sarebbe piaciuto in queste settimane poter andare, non lo so, alla facoltà di lettere dell'Università La Sapienza di Roma a provare ad avere un confronto con gli studenti? Purtroppo si rischia ogni volta una questione che diventi una questione di ordine pubblico, e questo certamente non aiuta per i ragazzi che manifestano, per quelli che non manifestano, cioè a capire quali sono i temi dei quali poi in qualche maniera stiamo parlando e capire dov'è la ragione, dov'è il torto, ma sicuramente poter approfondire. Questo purtroppo è un problema. Nel 2010 nella nostra università c'è ancora chi pensa di avere il diritto di decidere chi ha diritto e chi non ha diritto a parlare all'interno dell'università, e è un problema che purtroppo io nessuno può risolvere da solo, perché ci vorrebbe un'alleanza tra le forze politiche da questo punto di vista per capire che cosa è una legittima protesta e che cosa è la violenza prevaricatrice che diventa dittatura, perché purtroppo siamo di fronte anche a questo a volte. Dopodiché, per rispondere a quello che diceva Alessia Mosca, che invece mi interessava molto, nessuno ha liquidato e nessuno liquida il disagio che questi ragazzi che manifestano dimostrano, e anche quelli che non manifestano raccontano. A me arrivano tante lettere, tanti ragazzi mi raccontano la loro storia. È un disagio reale, io sono la prima ad averlo denunciato e a tentare di fare qualcosa di dignitoso per questo, ma non è mantenendo lo status quo che noi risolveremo il problema di questi ragazzi, perché questi ragazzi stanno in ginocchio per colpa di questo status quo, per colpa di questo sistema, per colpa di tutti quelli che si sono riempiti la bocca con l'attenzione alle giovani generazioni, ma di fatto non si sono mai occupati delle giovani generazioni. Noi diciamo, noi stiamo sempre dicendo i giovani sono il futuro. I giovani non sono il futuro, sono il presente, e nel presente noi dobbiamo dare le risposte del futuro. Allora, è vero anche, fermo restando che non è vero che ci sono stati questi tagli particolari all'università, perché come tante volte è stato ricordato, parliamo sempre più o meno fondo di finanziamento ordinario di 7 miliardi di euro, anche quest'anno, esattamente come quando c'era il governo Prodi, ci sono stati fatti dei tagli che sono stati ripristinati, per cui dobbiamo anche dire le cose come stanno. Ma se noi non riformiamo il sistema, possiamo continuare a buttare nell'università miliardi e miliardi di euro che non risolveranno il problema. Perché noi abbiamo un sistema che questi soldi li spreca, li utilizza prevalentemente per chi lavora dentro l'università. Giannino, un solo dato: dal 1999 al 2009 il corpo studentesco dell'università è cresciuto del 7%, il corpo docente del 24%. Ci sarà qualcosa che non ha funzionato? Se noi spendiamo il 90% delle risorse che in media si spendono in Europa per l'università, ma noi le spendiamo per gli stipendi, e non è vero che altri governi hanno investito sull'università mentre noi tagliavamo, perché noi non abbiamo tagliato, ma vogliamo andarla a dire agli studenti in Gran Bretagna? Che gli sono aumentate le tasse di tre volte tanto? No, è vero che nei tagli gli altri, diciamo, tagliano diversamente. Noi abbiamo i tagli lineari. In Gran Bretagna gli studenti protestano, malgrado che quello sia un ministero tagliato molto meno di altri che hanno avuto addirittura un taglio del 24%. Questa è credo quello che volesse dire l'onorevole Mosca. In ogni caso, noi, signor Ministro, passiamo il testimone per le altre trasmissioni che farà oggi. Io ringrazio Norma Rangeli, oltre che lei, l'onorevole Mosca. Fino a questo momento niente di preoccupante da segnalare. Oggi giornata dell'ascolto, per così dire, per gli studenti, e giornata anche però per tutti coloro che dialogano con gli studenti insegnando. Tentiamo anche, da gli insegnanti hanno un ruolo fondamentale per tentare di non veicolare solo visioni ideologiche del mondo, per insegnare che c'è prima un linguaggio quantitativo che deve essere condiviso per descrivere i fenomeni e i numeri, ed è questa la cosa che mi preoccupa di più. In Italia non è più possibile un linguaggio condiviso, uno strumento interpretativo dei fatti, perché ti senti sempre dire queste sono balle del tuo punto di vista, e questa non è una buona maniera, perché se ci si divide sui numeri e sui fatti non c'è alcuna possibilità di confrontarsi seriamente poi sulle opinioni e le soluzioni. Bene, a domani, grazie a tutti di Nagione Radio.